degli angeli parlare non è facile, perché nel mondo c'è almeno un paio di tendenze. Chi, secondo la mentalità della New Age, vede angeli dappertutto, e chi invece, seguendo una mentalità, diciamo, più critica anche verso la Bibbia, dice: ma no, gli angeli come esseri non ci sono. Quando la Bibbia parla degli angeli, compreso il brano che abbiamo sentito oggi dell'Esodo, capitolo 23, ecco io mando un angelo davanti a te per custodirti sul cammino, questi pensatori dicono che l'angelo è la personificazione della cura, dell'attenzione che Dio ha per l'uomo. Io non entro in questa discussione, lascio ai dotti. Io mi baso sulla fede della Chiesa, di cui sono figlio. E la Chiesa crede negli angeli come esseri spirituali, personali, veri, mandati da Dio. Ecco, non inventati dall'uomo che tutto vede angeli dappertutto, mandati da Dio. D'altra parte nella Bibbia è difficile non considerare tutti gli angeli che ci sono. Io vi dico solamente qualcheduno: Michele nel combattimento dell'Apocalisse, Gabriele nell'annuncio alla Madonna e Raffaele, compagno di Tobi, nel cammino e nel combattimento della vita. E poi credo, con la fede della Chiesa, all'angelo custode, quello di cui si parla nella messa di oggi. Trovo un po' strano, se non ci fossero gli angeli, che la Chiesa celebra una messa. In onore di chi? Del vento? Di fantasmi? Di persone inventate? E allora suggerisco anche a voi di amare gli angeli, tutti. Soprattutto però il nostro angelo custode, del quale si dice nella preghiera che dovremmo insegnare a tutti, anche ai bambini, quattro azioni che egli fa, quattro verbi da me amatissimi. Angelo di Dio, quindi è di Dio, che sei il mio custode. Quando una donna aspetta un bambino, gli dico: comincia a pregare il suo angelo custode, dicendo: angelo di Dio, che sei il suo custode. Quando una nonna prega per i suoi nipotini: angelo di Dio, che sei il suo custode. Mio per il mio, illumina, custodisci, reggi e governa. Questi quattro verbi bellissimi. Illumina. Quante volte noi non sappiamo da che parte girarci, che decisione prendere. Prendi l'abitudine di invocare il tuo angelo custode, di cui nel Vangelo si dice che il tuo angelo vede, sta alla presenza del Padre mio che è nei cieli. Vedono sempre la faccia, stanno alla presenza. Illuminami. Non permettere che io faccia delle asinate. Custodisci, e questo è quello che normalmente noi facciamo quando preghiamo: l'angelo custode, custodiscici dai pericoli del corpo ma anche dello spirito. Quante volte ci mettiamo nei pericoli del corpo e nei pericoli anche per la nostra anima. Illumina, custodisci, reggi. Quante volte ci sentiamo un po' lasciare andare giù per lo scoraggiamento, per la situazione, per le persone. Reggi e governa, indirizzami, dimmi la strada giusta. Illumina, custodisci, reggi e governa me, me. Perché ti sono stato affidato dalla pietà celeste. Io amo tanto il mio angelo custode, qualcuno sorriderà, ma sbaglia, che io gli ho dato persino un nome. Per non chiamarlo con un fischio, o per non dirgli hai tu, gli ho dato un nome al mio angelo custode e lui lo conosce e tutte le volte che lo invoco non mi lascia mai in asso. Se voi volete avere la fede della Chiesa, questa è la strada. Se voi volete fare altre strade, arrangiatevi.